Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Martina Mazzotta. Vita in una famiglia di arte e libri. Di Anna Marino. L'arte e i libri. C'era sempre un gran passaggio di opere, anche osservate da molto vicino. I bambini osservano tutto da vicino, o si avvicinano a un oggetto e disegnano, vivono, respirano, telefonano lì vicino. Quindi mi sono resa conto di aver osservato opere interessantissime, ma anche libri. Essendo poi mio padre bibliofilo, c'era una consuetudine nei confronti proprio di questi oggetti, che poi mi sono resa conto essere stati anche parte di una storia importante per la collettività, però sicuramente tutto con grande naturalezza, nel senso che è sempre stata il nostro cibo in tutti i sensi. Questo è l'humus, il terreno fertile in cui è cresciuta Martina Mazzotta, che ha ereditato dal padre Gabriele la direzione della fondazione di famiglia intitolata al capostipite Antonio Mazzotta. È dal 1966 che la famiglia Mazzotta, cappeggiata da Gabriele, editore e collezionista milanese, si fa protagonista di una lunga tradizione nella storia dell'editoria e della cultura, in Italia e all'estero. Martina ha assorbito uno a uno questi momenti di svolta del mondo culturale, fin da piccola. Io adoravo tutto quello che è la cancelleria, adoravo disegnare, per cui nei pomeriggi dopo scuola andavo in casa editrice a ritagliare le figure che venivano molto semplicemente incollate sui menabò dei libri, o andavo a fare a fotocopie, mi fotocopiavo il volto, la mano, andavo a leggiucchiare. C'era questa fucina creativa che è ancora un po' così, che allora era ancora più artigianale, non essendo i computer o il digitale ancora diffusi, per cui sì, c'era una frequentazione diretta, sia per quanto riguarda me o gli amici che venivano a ritagliare, ci facevamo anche i nostri libri illustrati da soli con i materiali che ci venivano forniti, sia per quanto riguarda la collettività, perché ero proprio alle elementari quando mio padre portò grandi nomi allora sconosciuti anche in Italia, le prime mostre, la prima in assoluto di Munch, che veniva pronunciato Munch dalla gente a Palazzo Reale, piuttosto che di Paul Klee, vennero visitate dalla mia classe con la maestra e con il papà che ci portava, per cui c'era anche un'apertura, diciamo, alla nostra vita inserita in un'istituzione come quella scolastica, che partecipava a queste scoperte. Suo padre è Gabriele Mazzotta, editore di Milano. Cominciò nel 66, a 25 anni, con un libro sul Dada di Richter, libri politici di ecologia e femminismo, per passare negli 80 ai cataloghi di arte, collezionista e mecenate di origine salentina. La mamma, Bianca Franchetti, amministratore delegato, proviene dall'antica aristocrazia veneziana. La fondazione Mazzotta, ricavata da un antico opificio tessile, è dedicata al nonno Antonio, l'umanista. È a lui che si deve il virus dell'arte. Studiò a Bari negli anni 20-30 e si affermò come commercialista a Milano. Durante la Seconda Guerra venne mandato al confino e poi diventò partigiano. Non lo vedevano mai in famiglia, però era un appassionato d'arte e divenne collezionista. De Chirico, Carrà, De Pisis. Attività imprenditoriale che ha un carattere fatto a misura delle persone di famiglia, che l'hanno guidata fino ad arrivare a lei. È un universo abbastanza unico e irripetibile. È molto legato ai singoli individui che l'hanno creato e soprattutto alla figura ovviamente di mio padre, che nel 66 era studente alla Bocconi, era figlio di un uomo di cultura, sì, ma un uomo che era venuto dal sud, aveva sposato una milanese, era stato partigiano, ma era insomma un grande commercialista di Milano, presidente dell'ATM con mille altre cariche, e che si aspettava che il figlio seguisse le proprie orme, mentre la passione per l'editoria e la ribellione verso forse questi schemi anche molto borghesi, molto radicati al dopoguerra di mio padre, lo portò a fondare, anche sostenuto da questo padre potente venuto dal sud, la casa editrice proprio nel 66, con un titolo che è un po' un manifesto programmatico di tutto quello che poi sarebbe stato. Il titolo è Dada, arte e antiarte di Hans Richter. Inaugurava quella collana Testimonianze, poi coedita con case editrici internazionali in diverse lingue, che era una visione privilegiata sulle avanguardie storiche attraverso le testimonianze dei diretti protagonisti. Quindi era un libro anche, se vogliamo, sovversivo, una prima presa di coscienza della matrice poi che è ancora così presente nell'arte contemporanea del dadaismo. E da qui una serie di titoli molto fortunati proprio nei primi anni 60 che hanno lanciato, se vogliamo, una piccola casa editrice artigianale nell'ambito internazionale come pioniera nell'esplorazione di diversi ambiti, perché era solo 68 quando Gillo Dorfles dava fiducia a mio padre alla Fiera del Libro di Francoforte per pubblicare il Kitsch, e da allora il termine Kitsch divenne d'uso comune nella lingua corrente, piuttosto che il primo libro in assoluto dell'arte povera, dove l'arte povera venne chiamata così proprio per dare un titolo al libro di Celand, che oggi tra l'altro è introvabile, ne posseggo uno io che tengo come una reliquia, ma se viene acquistato nelle librerie antiquarie è una sorta di cimelio. Laureata in filosofia alla Statale di Milano, assistente dal 2003 al 2011 di storia dell'arte alla Cattolica di Milano, ha studiato e lavorato anche in Germania e Gran Bretagna. La formazione di Martina Mazzotta è intrisa di Italia ed estero, di un ventaglio di culture diverse. La mia formazione è primariamente milanese, con filosofia teoretica alla Statale, tedesca durante l'università e dopo con una borsa DEAD. Ho studiato a Berlino e a Monaco. Studiando filosofia teoretica, occupandomi di visuale senza mai vedere un oggetto, mi resi conto che le mie conoscenze storico-artistiche erano insufficienti, iniziai a lavorare alla Royal Academy di Londra e poi tentai il concorso alla scuola di specializzazione in storia dell'arte della Cattolica di Milano, che è una sorta di PhD di 3 anni, molto ecumenico perché permette anche ai filosofi e agli architetti di studiare con una sorta di dottorato in storia dell'arte. Iniziai a frequentarlo e ho insegnato lì anche col professor Caramel e Tedeschi fino all'anno scorso, e da lì il mio appunto ritorno a Milano per degli studi avanzati coincise anche con le prime esperienze dirette in fondazione, magari assistendo chi ci lavorava già da parecchi decenni, e mano a mano sono rimasta qui perché tutto sommato ho pensato che ci sarebbe stato più bisogno di me qui che altrove, anche se sarei potuta rimanere all'estero a studiare. Adesso ci ritorno all'estero perché dopo ormai 10 anni sono anche un po' stufa di combattere anche contro, e lo dico con un certo tipo di corruzione, solo qui, meglio proiettarsi al resto del mondo anche esportando l'eccellenza italiana, per cui vado via di nuovo, ma anche per restare. E grazie agli insegnamenti di famiglia, ecco come, secondo Martina Mazzotta, una casa editrice sopravvive nel tempo alla crisi. Dal punto di vista imprenditoriale, cioè legato alla sopravvivenza comunque di una casa editrice, di una fondazione che pur essendo no profit deve comunque produrre per vivere, il fatto di esplorare sempre il nuovo crea una nicchia di mercato e porta ad essere competitivi. Nella trasformazione radicale anche delle logiche anche economiche globali si guarda sempre di più lontano all'Asia. Adesso che io vivrò a Londra, ho un marito inglese, anche se ho già lavorato e vissuto in Germania per molti anni anche a Londra, penso che per la fondazione sarà un altro tassello che la proietterà al nuovo, anche se oggi non è così importante dove si risiede principalmente, ma occorre un continuo studio, aggiustamento, esplorazione, una continua ricerca. Uno dei principali scopi che la Fondazione si prefigge è quello di conservare e valorizzare la collezione di opere d'arte che si è venuta costituendo all'interno della famiglia Mazzotta fin dal capostipite Antonio. Sono presenti 2000 opere tra disegni e acquerelli, con raffinati cicli di grafica e fotografia, a partire dal Settecento fino ai giorni nostri. Il percorso per arrivare alla fondazione parte da lontano. Ci si arriva per una richiesta istituzionale del Ministero degli Esteri che nell'88, presieduto da Suni Agnelli, aveva esigenza di rappresentare l'Italia alla Fiera del Libro di Francoforte, che ogni anno è dedicata a un Gastland, a un paese straniero che viene declinato secondo tutti gli aspetti che lo possono rappresentare in Germania e soprattutto a Francoforte, anche attraverso l'arte. C'era l'esigenza di rappresentare l'Italia e fu chiesto a Mazzotta di proporre una mostra che poi è diventata una pietra miliare, disegno del nostro secolo, appunto anche del nostro percorso, perché l'attenzione alla grafica, al disegno, alle arti minori è sempre stata altissima, e la mostra tedesca poi itinerò per altre sedi e per la Svizzera, e resta un po' appunto quel fondamentale tassello istituzionale che ha dato avvio alla fondazione. E dal passato al contemporaneo al futuro, l'invito alla lettura di Martina Mazzotta anche alle nuove generazioni. Beh, un invito è un invito a un atteggiamento che è quello di curiosità massima nella società liquida in cui viviamo. Davvero gli stimoli sono rapidissimi e si susseguono con una rapidità incredibile. L'invito forse è nell'identificare in qualcuno, che sia un insegnante, che sia una persona con cui si lavora, ma anche un grande scrittore che non si conosce, ecco, di identificare in qualcuno un maestro, qualcuno che possa proporre un modello dello stare al mondo, un atteggiamento di vita che porti ad altro, anche magari con degli errori, ma credo che oggi sia proprio l'identificazione di una sfera individuale proprio che era propria del maestro che manchi. Ci sono tantissimi stimoli che magari una persona sola, soprattutto se giovane, non è in grado di elaborare. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.